Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, non è certo uno che le manda a dire. Da piccolo, a scuola a Locri, come vicini di banco aveva persone che avrebbero fatto una gran carriera. Sì, ma nell'andrangheta. Figuriamoci dunque se ha paura di dire quel che pensa. E quel che pensa sul tema dell'informatizzazione della giustizia ai fini della lotta alla mafia lo ha detto nel corso di una giornata di lavoro organizzata dalla provincia nell'ambito della seconda festa della legalità a Reggio Emilia. Per spiegarsi, ebbene, con un esempio, Gratteri ha citato la notifica di avviso di fine indagine. In media, ha detto il PM, in Calabria spediamo una settantina di avvisi per avvisare gli avvocati degli indagati della fine delle indagini a loro carico. Ma dico io, è esploso di fronte a una platea di giovanissimi e giovanissime che lo ascoltavano, ma perché non farlo con la posta certificata? E invece no. Io devo notificare con i messi giudiziari che magari sono ciechi da un occhio, non ci vedono bene e sbagliano indirizzo. E così, magari, facciamo uscire il detenuto dal carcere per decorrenza dei termini e tanti saluti. Poi ha continuato con altri esempi, Gratteri. Il potere ha sbottato, l'informatica negli uffici giudiziari e nell'amministrazione della giustizia non la vuole proprio, per poter così gestire il proprio potere. Volete un altro esempio, ha detto? Un'ordinanza in media costa in Calabria dai 30 ai 40 mila euro di spese vive. La notifica della stessa agli avvocati degli indagati costa tra i 3 e i 4 mila euro. Ma perché fare fotocopie su fotocopie quando basterebbe una mail certificata? L'avvocato dell'indagato ha pagato i diritti di segreteria? Bene, basta che me lo dimostri. Sempre per via telematica io, con un clic, gli mando l'ordinanza. Con queste altre modifiche che abbiamo studiato con lo studioso di mafia internazionale Antonio Nicaso e già rese pubbliche, i tempi del processo, ha concluso Gratteri, si possono abbattere fino al 60%. Bastano 10 modifiche, non di più, e le abbiamo già elencate tutte. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Buona vita e a domani.